Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Stiamo proseguendo questo nostro cammino nella conoscenza dei provvedimenti sulle liberalizzazioni prese dal governo Monti. Allora, nuova puntata quest'oggi: stimolare la concorrenza, rimuovere gli ostacoli che frenano il mercato e al tempo stesso tutelare il cittadino. Sono tutti obiettivi che si possono ricondurre nelle intenzioni del governo all'ormai famoso decreto legge numero 1 di quest'anno, meglio conosciuto come decreto liberalizzazioni. Nelle puntate di questi giorni stiamo affrontando diversi aspetti toccati dalle nuove normative, concentrandoci in particolare su quelli che vanno a toccare più direttamente le esigenze del consumatore. Oggi, dopo esserci concentrati nei primi due giorni della settimana sulle assicurazioni, andiamo a toccare un altro ambito che crea non pochi pensieri all'utente finale, al consumatore, appunto, le tariffe per gli incarichi ai professionisti. Parliamo quindi del commercialista, del medico, del notaio, dell'architetto, del dentista, categorie a cui ci affidiamo nelle circostanze più varie, spesso anche molto delicate, della nostra vita, confidando nella loro competenza, responsabilità e bravura nel gestire materie spesso oscure ai cittadini comuni. In molti casi però è soprattutto una preoccupazione a prevalere nel momento in cui ci si affida a questi esperti, e cioè quanto verrà a costare la prestazione professionale. Il pacchetto liberalizzazioni intende andare incontro anche a questa esigenza, apportando alcuni cambiamenti nelle norme che regolano il rapporto fra cliente e professionista. In primo luogo vengono eliminati i paletti che stabilivano il limite minimo e massimo per le tariffe, e il compenso verrà quindi lasciato alla libera valutazione dell'esperto e del cliente. Al tempo stesso però, proprio per consentire al consumatore di valutare con più facilità offerte diverse, viene introdotto per il professionista l'obbligo di fornire tutte le informazioni che riguardano le singole attività che si andranno a svolgere, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo. Inoltre, il compenso deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico e il preventivo può essere richiesto dal cliente in forma scritta. Tanti elementi quindi da tenere a mente. Come si concretizzerà tutto questo nelle abitudini pratiche dei professionisti e soprattutto di noi consumatori? Ne parleremo quest'oggi con una collega del Sole 24 Ore collegata telefonicamente con noi, Laura Cavestri. Buongiorno Laura, benvenuta. Buongiorno Debora, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E chiaramente abbiamo coinvolto anche due categorie di professionisti. Saluto Michela Marcarini, consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, che è qui con me. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. E saluto e ringrazio per essere ritornato a Salva Danaio Gabriele Noto, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Notaio, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, avete tante modalità per interagire con noi. La prima è quella che vi consente di intervenire in diretta con le vostre domande, le vostre sollecitazioni, le vostre richieste di chiarimento. 800 24 00 24 è il numero verde appunto per la diretta. Oppure potete scriverci i vostri sms al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siamo anche su Facebook, il nostro profilo è salvadanaio-radio24. Allora, prima un'occhiata alla borsa, visto che oggi ci racconta buone notizie. Andiamo a rimarcare quello che sta accadendo stamattina sui listini del vecchio continente, che sono tutti in crescita molto sostenuta, ma soprattutto la regina d'Europa è Milano, che segna un più 2,42% sul FTSE MIB, con i titoli bancari di nuovo in corsa molto forte. Monte dei Paschi più 8,58%, il Banco Popolare più 8, Popolare dell'Emilia Romagna più 5,84, Mediobanca più 5,70, Banca Popolare di Milano più 5,55, UbiBanca più 5,24. Potremmo continuare a lungo, sono tutti molto ben impostati i titoli del settore stamattina. Bene anche Fiat Industrial, più 3,94% per il gruppo, che era andato già bene ieri dopo aver rassegnato i dati e la trimestrale della controllata americana Case New Holland. Stamattina invece è proprio il gruppo stesso che rassegna i dati, che hanno mostrato appunto utili e ricavi in crescita. Che abbiamo invece in discesa? Saipem, anzi in discesa, diciamo, abbiamo un gruppo di titoli che guadagnano meno degli altri, nessun titolo con il rosso. Saipem è più 0,14%, Enel Green Power più 0,5%, Diasorin più 0,5%, Tenaris più 0,8%. Il volo dei titoli bancari è riconducibile, secondo gli analisti, al restringimento dello lo spread del differenziale di rendimento fra i titoli italiani e i titoli tedeschi, che è sceso ben al di sotto dei 400 punti base, e il rendimento del titolo decennale sul mercato secondario questa mattina era intorno al 5,7%. Euro su dollaro a 1,3131, oggi molti dati economici che arrivano dagli Stati Uniti, peraltro ci sarà anche la trimestrale di Chrysler. Tra i dati che arrivano, i nuovi mutui per la settimana che si è conclusa il 27 gennaio, le anticipazioni dell'agenzia ADP sull'occupazione in vista del dato ufficiale sulla disoccupazione americana fissato per venerdì, e poi avremo anche le spese per costruzioni. Direi che la borsa la possiamo lasciare, questa mattina andiamo al tema che vi abbiamo preannunciato, torniamo a parlare di liberalizzazioni. E stamattina cerchiamo di capire che cosa cambia nel rapporto fra consumatori, utenti e i professionisti, perché come avete sentito appunto fra le novità scritte nel nuovo pacchetto di Monti c'è anche questa misura che fisserebbe questo obbligo del preventivo scritto. Abbiamo bisogno di una consulenza professionale, di un architetto, di un commercialista, di un notaio, ma anche di altre categorie. Ecco, adesso queste figure hanno l'obbligo appunto di indicarci quanto verrà a costare nella prestazione. Ho sintetizzato molto la Laura, ma nell'ultimo pacchetto la novità, Laura Cavestri, è solo questo o c'è anche qualche cos'altro di importante da rilevare e da far conoscere ai nostri ascoltatori? Nel pacchetto che appunto è il decreto legge liberalizzazione numero 1/2012, questa è sicuramente la novità principale. Teniamo conto che il compenso, come dire, pattuito per iscritto al conferimento dell'incarico era già stato stabilito ad agosto con la manovra, cosiddetta manovra di agosto, del 13 di agosto scorso, quindi in qualche modo è riconfermato in qualche modo, no? Risottolineato in questo decreto. Si aggiunge questo ulteriore elemento che appunto in qualche modo la previsione di preventivo scritto che il professionista è tenuto a dare al cliente se questo lo richiede, quindi attenzione che il preventivo scritto non scatta automaticamente ma deve essere una richiesta esplicita del cliente. La differenza rispetto al passato qual è? Semplicemente che prima non c'era alcuna previsione di questo tipo, non c'era né un obbligo né una facoltà, semplicemente il cliente probabilmente lo poteva chiedere, il professionista poteva anche non fornirlo, decidere di non fornirlo. Spesso è capitato insomma in passato che alcuni professionisti non lo fornissero, non veniva chiesto, e questo non costituiva un illecito. La novità è appunto che il preventivo scritto a richiesta del cliente deve essere fornito indicando tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi, quindi deve essere dettagliato e deve in qualche modo fornire un dettaglio di quella che è anche la complessità dell'opera, l'importanza dell'opera, deve essere chiaro, insomma trasparente. L'inottemperanza, cioè se il professionista si rifiuta, anche adesso ricordiamo che il decreto legge è in vigore dal 24 di gennaio, quindi questa è già una previsione, è già legge dello Stato, l'inottemperanza costituisce illecito disciplinare, cioè significa che se il professionista ancora oggi si rifiuta, il cliente può andare all'ordine, in qualche modo denunciare tra virgolette la situazione, e questo costituisce illecito disciplinare sanzionato e sanzionabile dall'ordine stesso, quindi è una previsione insomma che ha una certa forza in qualche modo rispetto al passato. Certo. Allora, dottoressa Marcarini, chiedo a lei un primo commento rispetto a questa novità, ce lo raccontavamo già a microfoni spenti, io credo che non rappresenti una grandissima novità il fatto che un cliente venga da lei e le dice: guardi, ho bisogno di assistenza fiscale quest'anno per la mia dichiarazione dei redditi, quanto mi costa, perché magari preferisco rivolgermi al commercialista, ad un esperto, piuttosto che ad un CAF o ad un'altra figura appunto che può fare la stessa consulenza. Quindi per certi lavori fare un preventivo non è particolarmente complicato. Qui la questione diventa particolarmente complessa se arriva un cliente e le dice: devo costituire un'impresa e quindi mi devi seguire per un anno, e chissà quanti ostacoli si presentano e quante procedure si manifestano da seguire, quindi qui il preventivo magari iniziale potrebbe essere in corso d'opera non rispettato. Quali sono le cose che secondo lei magari dovrebbero essere migliorate, se ne vedete, nel pacchetto liberalizzazioni? Allora, sicuramente la redazione del preventivo ora obbligatorio, sempre se richiesto dal cliente, era una prassi ormai che chiunque lavora quotidianamente comunque aveva adottato, quindi qualsiasi fosse l'obbligo o meno di redazione. È importante perché è importante per entrambe le parti, quindi è importante per il cliente ed è importante anche per il professionista. Naturalmente prima non c'era la tutela, diciamo, del cliente che poteva a questo punto dovuto rivolgersi all'ordine perché il professionista non aveva redatto il preventivo. Resta il fatto che probabilmente avrebbe cambiato professionista, quindi pur non essendoci, diciamo, la sanzionabilità o la possibilità di rilevare questa mancanza perché la norma non c'era, comunque era un indizio importante per un utente. Io fossi andato da un odontoiatra per una qualsiasi operazione o intervento ai denti e avendogli chiesto il preventivo non me lo redigeva, io cambiavo sicuramente. Quindi secondo me è un falso problema. E quindi ben venga l'obbligo, tanto si faceva lo stesso, perché sennò si doveva perdere il cliente. Quindi direi che problemi non ce ne sono. Quello che invece secondo me è importante è cercare di capire bene su determinate prestazioni come fare ad immaginarci quanto sarà necessario svolgere e conseguentemente preventivare per svolgere quella pratica per il cliente. Lei diceva prima, devo costituire una società, devo fare determinate cose da zero, è difficile immaginare la complessità della prestazione, quindi è difficile quantificarne il prezzo e le spese. Soluzione, una standardizzazione che però forse potrebbe anche non essere vantaggiosa per l'utente, perché magari la standardizzazione conclude con un importo più alto di quello che necessariamente sarebbe stato poi consuntivizzato. Forse identificare nel preventivo tutto quello che è possibile, quindi spiegare e dettagliare nel costo tutto il possibile al momento del conferimento dell'incarico, e poi utilizzare uno strumento che, non lo so, potrebbe essere una tariffa oraria, potrebbe essere un'indennità, o comunque lasciare uno spazio aperto, di modo che mi metto sempre dalla parte dell'utente, so quanto mi costa quello che non è sopradetto. Quindi, diciamo, anche l'eliminazione, sono anche cliente qualche del tariffario volta. Minimo e sì. Massimo, anche lì un problema che si supera comunque ricostituendo, secondo lei, degli standard comunque di prezzo per certe prestazioni. Da questo non si può prescindere. Comunque identificare delle linee guida nel preventivo scritto, perché il cliente deve sapere che quanto non è ben specificato sarà parcellato a che prezzo. Io voglio sapere quanto spendo quando sono un cliente, e ritengo giustissimo che un mio cliente pretenda altrettanto, certo, per le mie prestazioni. Probabilmente, a prescindere dalla norma, la prassi chiarirà molti aspetti, certo, nei prossimi periodi, nei prossimi mesi. Allora, prima di sentire il notaio noto, forse è il caso che facciamo già la prima pausa. Rudy, sì, perché magari così gli potrò permettere di articolare un po' di più la sua considerazione, e a noto chiaramente andrà la stessa domanda, simile a quella che ho fatto la dottoressa Marcarini anche per un notaio. Insomma, fare un rogito piuttosto che invece gestire una pratica successoria di un'eredità miliardaria fra 10 fratelli e tanti parenti, sicuramente sono due operazioni molto diverse, per le quali è difficile poter fare un preventivo ad un cliente chiaro e preciso sin dall'inizio della pratica. Eccoci ritrovati in diretta. Questa mattina stiamo parlando ancora del pacchetto liberalizzazioni del governo Monti, il decreto che è praticamente stato il primo di quest'anno e che introduce appunto queste nuove misure per rendere più concorrenziale il mercato a vari livelli. Nei primi due giorni della settimana abbiamo parlato del settore assicurativo, l'RC Auto, ieri il Vita con le polizze associate ai mutui. Oggi parliamo invece delle consulenze che abbiamo bisogno da parte di molte organizzazioni professionali, dall'architetto al dentista, quindi il commercialista, il notaio. Ecco, la nuova misura di Monti introduce questa sorta di obbligo a formulare un preventivo scritto per il cliente che lo chiede. In caso contrario, appunto, il cliente che non lo riceva si potrà sentire nel diritto di andare a denunciare questo comportamento appunto agli ordini professionali. Questa è una delle grandi novità di queste misure, ma non che ci siano delle novità enormi relativamente al fatto che un professionista, è lecito che tu gli chieda un preventivo scritto appunto per un lavoro che hai bisogno di ottenere. Detto questo, notaio noto, consigliere nazionale del notariato, per quello che riguarda la vostra categoria, lo stesso, credo che il tema del preventivo non rappresenti uno spettro, una paura, una novità da guardare con sospetto e con timore. Che cosa cambia per quello che riguarda l'esercizio della vostra professione con queste liberalizzazioni? Se parliamo di notai, posso dirle che per noi il preventivo, anche obbligatorio, giustamente Laura Cavestri prima segnalava che non è ancora obbligatorio, anche se fosse obbligatorio per noi sarebbe proprio un bel vantaggio, perché noi abbiamo un ruolo particolare, perché dobbiamo differenziare tasse dalle spese, siamo anche esattori, tra virgolette, per lo Stato, dall'onorario vero e proprio. E questo ci può aiutare anche a sfatare alcune leggende metropolitane su ciò che è il compenso del professionista e ciò che invece finisce allo Stato. Non dimentichiamo ancora qualche piccola cerotto che ancora ci portiamo dietro per la leggenda metropolitana in materia di auto, quando su 400 euro di passaggio di proprietà il notaio percepiva 20-22 euro. Questa è una cosa che ai cittadini non era chiara, forse non è chiara neanche adesso. Ma non è chiaro neanche il rogito come funziona, noto, forse anche con lei abbiamo fatto più volte la specifica dell'operazione regina del lavoro del notaio, no? La compravendita di un immobile, voi certificate questo passaggio di proprietà, ma molto spesso il consumatore ha l'idea che gli 8.000 euro che chiedete, perché li chiedete voi, siano tutti di parcelle di onorario del notaio, invece praticamente ne è neanche un terzo, forse anche meno, perché è tutto in posta appunto quello che il notaio molto gestisce. Molto meno, d'altronde noi abbiamo salutato con favore e abbiamo appoggiato questa come altre norme del governo Monti, perché, come giustamente segnalava lei, l'interesse per lo Stato è duplice: far crescere l'economia del paese stimolando risparmio e consumi, ma anche mantenere inalterato, se non addirittura stimolare il miglioramento della concorrenza e lo standard medio dei professionisti, cercando di mantenerne un ruolo, almeno per chi, come tutti noi del mondo professionale, crediamo nel ruolo importante sul piano culturale della presenza delle professioni. Il punto che segnalava anche la collega commercialista è questo: come fa il consumatore a valutare una prestazione professionale che può essere anche complessa e diluita nel tempo? Ci avviciniamo a ora di pranzo, se io mi reco in un bar per valutare un pasticcino o un panino, ho immediatamente la possibilità di percepire se quello che sto mangiando è buono oppure no. Se il barista mi dà una presaola non adeguata, io me lo ricordo, se ci sto male non ci torno più, in ogni caso ho la possibilità di valutare immediatamente il gusto della presaola, se è secca, sottile oppure no. Col professionista non è possibile direttamente avere per il consumatore una percezione così netta e definita. Quindi è importante che ci sia uno, e qui proprio sintetizzo in un piccolo slogan, approccio curioso per scelta virtuosa. Cioè, giustamente ancora lei diceva, i clienti vanno dal notaio in momenti delicati della vita. Bene, dedichino questo tempo per un approccio curioso, pretendano dal notaio attenzione per fare poi una scelta virtuosa, cioè una scelta non basata su una serie di invii di mail a un'ipotetica mailing list, ma invece attraverso anche una pretesa, perché io parto sempre dal presupposto che la prestazione notarile alta è un diritto democratico, è un diritto che il cittadino ha, che noi dobbiamo dare. Quindi, individuato così il problema di base, poi magari nel proseguo potremmo anche individuare quali sono i possibili scenari, però credo che il preventivo sia un'occasione per tutti e che, se letto bene, sarà davvero un'occasione di crescita per professionisti e cittadini. Certo, soprattutto ci interessa esplorare, notaio noto, gli scenari verso i quali tenderà ad incontrarsi o a scontrarsi il consumatore e l'utente finale. Volevo fare una domanda prima di sentire gli ascoltatori che sono pronti: Giuseppe da Brescia, Laura dalla provincia di Monza e Brianza e Alessandro da Roma. Un'altra domanda alla collega Laura Cavessi, perché noi questa mattina abbiamo due ordini professionali, due categorie professionali, commercialisti e notai, ma la norma riguarda praticamente quale tipo di universo di ordini professionali, tutti quanti? Quindi ho detto una cosa corretta quando ho parlato prima di dentista, di campo medico anche, Laura? Sì, diciamo che la norma riguarda tutti. Non fa particolari distinzioni, soltanto le norme che sempre nel decreto legge liberalizzazioni riguardano invece il tirocinio professionale, di cui non abbiamo parlato, di cui questa probabilmente non è neanche di tanto la sede in questo modo per parlarne, fanno distinzioni tra campo sanitario e non. In questo caso invece, per quanto riguarda le norme sul preventivo e sul compenso scritto, non ci sono distinzioni di categoria. Volevo aggiungere, se posso permettermi velocemente, a quello che dicevano giustamente i colleghi professionisti. Effettivamente nella realtà, poi bisogna misurarsi anche un po' con la realtà, nella gran parte dei casi, poi ciascun ascoltatore potrà portare il suo contributo e la sua percezione, i professionisti si misurano con il mercato già da tempo e quindi lavorano con le imprese hanno bisogno di certezze anche dei costi, quindi è chiaro che come dire, la simmetria tra il cliente e il professionista si è negli anni ridotta. Questo è un salto culturale che cerca di portare in avanti o comunque su uno standard un po' più elevato in qualche modo tutti i professionisti del paese. L'Italia è lunga e stretta, lo sappiamo, e noi come Sole 24 Ore e come sezione che si occupa dei professionisti non di rado riceviamo lettere, mail, richieste e di persone che si lamentano perché magari, questo in passato naturalmente, hanno magari chiesto preventivi o chiarezza sugli onorari e non sono stati forniti. Quindi diciamo che c'è differenza magari di parlare tra una grande realtà magari metropolitana e una piccola realtà magari di provincia dove ci si affida al professionista ancora, esatto, come il medico, esatto, più più tradizionali e magari si è meno abituati al confronto. Sicuramente, come dicevano i colleghi, questo smaschererà o quella sarà anche l'occasione, l'opportunità per eliminare alcuni alibi, quindi per capire esattamente come è fatta una parcella, come si costruisce l'onorario, visto che le tariffe sono state abolite anche come riferimento, anche se naturalmente sono ancora tra virgolette nella testa, è normale, dei professionisti, ma in qualche modo se l'onorario viene costruito consapevolmente insieme al cliente, io credo che all'inizio, certo, adesso sarà è abbastanza, capisco che può essere un po' difficile, cercare di capire quali possono essere anche le strategie per professionisti per cautelarsi da un lato e per districarsi in assenza di un riferimento chiaro. Credo che nel medio lungo periodo ci saranno degli aggiustamenti di mercato e in qualche modo forse la situazione potrà essere resa più fluida. Benissimo, sentiamo allora gli ascoltatori che tipo di considerazioni hanno su questo tema di questa mattina. Giuseppe da Brescia, buongiorno, abbiamo subito il commercialista in onda. Giuseppe, buona giornata. Buongiorno a tutti voi e ai vostri ascoltatori. Io porto la mia esperienza come commercialista. Di fatto il decreto Monti non fa altro che sfondare una porta aperta, nel senso che noi, per quanto riguarda almeno la mia realtà, concordiamo con il cliente quello che è la tariffa professionale e la concordiamo di solito sempre a tavolino per quanto riguarda le prestazioni ordinarie. E per quanto riguarda le tariffe minime, ma per quelle straordinarie, Giuseppe, secondo lei come ci si comporterà a questo punto? Parlavamo prima della costituzione di una società, di un'impresa che chiaramente avrà degli step conseguenziali, successivi e progressivi, che magari porteranno anche ad un professionista, no? A cambiare le carte in tavola necessariamente, perché possono cambiare molti fattori in gioco. Aprire una società, una panetteria, piuttosto che una impresa siderurgica, probabilmente non è la stessa cosa, no? Anche per voi. Per cui sul variabile come vi potrete comportare secondo voi? Ma guardi, io sotto questo punto di vista direi che aprire una società ha ben poco di variabile, nel senso che, come giustamente lei dice, se apriamo una panetteria sappiamo già quali sono gli adempimenti che andiamo a fare, se apriamo una fonderia anche lì cambiano gli adempimenti, perché poi gli adempimenti sono già prefigurati, no? Per cui io so già che cosa, quali iscrizioni, quali altri adempimenti devo fare. Ecco perché le dicevo, si concorda a tavolino con il cliente quello che può essere l'onorario della prestazione. Piuttosto diventa magari un pochino più difficile andare a discutere magari in commissione tributaria di altri aspetti, perché lì chiaramente c'è un discorso intellettuale legato anche a una variabilità di discorso che si ha con l'interlocutore. Certo, ecco. Giuseppe, grazie per questa indicazione sulla quale voleva intervenire la dottoressa Marcarini in studio. Concordo con il collega, forse abbiamo omesso di dimenticare che costituire una società e quindi metterla in pista per poi svolgere la propria attività nei modi corretti, nel rispetto delle norme civili e fiscali, oltre ad aver bisogno della collaborazione di un notaio, però quello che conta è la fase prodromica, quindi per esempio un adeguato atto costitutivo rispondendo e cercando di venire incontro alle esigenze dei vari soci. fossero tre familiari forse starei più attenta che se fossero tre soci estranei, perché poi sappiamo che ci possono essere altre problematiche successive. Quindi, a mio parere, anche la costituzione di una società da questo punto di vista merita un'attività consulenziale molto importante, e dirò di più, di grande collaborazione tra vari professionisti, perché ci può essere la necessità di avere un avvocato, un commercialista e anche il notaio, certamente. Mm-hmm. Quindi ben vengano comunque i preventivi, perché giustamente qua ci possiamo mettere 10 minuti, ci possiamo mettere 2 ore, ci possiamo mettere 6 mesi, perché mm-hmm. se dobbiamo costituire una società che abbia un atto costitutivo che deve, come dire, rispecchiare determinate esigenze dei soci che saranno poi appunto soci della costituenda società, non è una cosa che si fa in poco tempo. Certamente. Bisogna vederlo. Quindi fondamentale è il rapporto di fiducia. Io questo lo dico col cuore a tutti: non andate mai da un professionista di cui non avete fiducia, poi chiedetegli il preventivo, perché è giusto chiederglielo, è giusto sapere dove si va a finire per le cose ordinarie e in qualche modo prevedere anche le straordinarie. Mandate da chi avete fiducia. Anzi, posso dire perché che è fondamentale. Il professionista, magari un ventaglio delle circostanze possibilmente straordinarie, magari te le fa anche, non te le dice strada facendo, certo. Non te le presenta strada facendo, proprio per cambiare in corsa anche il famoso preventivo iniziale. Ci fermiamo ancora per un attimo per i suggerimenti per chi è in viaggio. Devo dire che c'è anche chi sta sollevando la questione della possibilità che questi professionisti, sì, d'accordo, facciamo tutti quanti il preventivo adesso, ma ve lo facciamo pagare. C'è qualcuno che sta sollevando questo sospetto, come Alessandro da Roma, che sento tra qualche istante. Allora, c'è un ascoltatore che su Facebook ci scrive: Angelo, dica al notaio che 22 euro per una firma per il passaggio di proprietà auto è pure troppo. Vabbè, abbasseremo anche quello, ma se non è parcella del notaio, ma se è un costo puro della pratica, perché adesso non so che tipo di pagamenti devono essere fatti per il passaggio di proprietà auto, magari per il notaio non ci prende neanche praticamente una microscopica percentuale su questa cifra. Detto questo, notaio noto, volevo anche sottoporle, prima di sentire Alessandro da Roma, a cui ho promesso di parlare non appena saremo ritornati in onda, un ascoltatore, Federico, che ci scrive praticamente dalle sue parti perché è di Vicenza, ci racconta che a Vicenza tutti i notai devono rispettare delle tariffe standard sulle compravendite, annullando così la possibilità di risparmiare per l'utente finale. Che cosa cambia ora? Ma è davvero così? Ma le tariffe fino adesso più o meno, insomma, ci sono sempre state applicate con moderazione. Noi abbiamo sempre creduto che fosse un interesse anche del cittadino avere un punto di riferimento, perché poi le tariffe i cittadini devono sapere che non sono emanate dalle singole categorie. E noi, i commercialisti, gli avvocati, sono tutte tariffe ministeriali emanate da un organo indipendente che ha fatto una valutazione a monte di quello che è un'attività. E questo è sicuramente una trasparenza per il cittadino e comunque un'indicazione. Una cosa è dare un riferimento, un'altra cosa è dare un'imposizione. No, tra l'altro, a proposito del fatto di rappresentare a volte queste tariffe minime come imposizione, c'era un giovane architetto che prima avevamo in collegamento telefonico, che adesso abbiamo perso, che ci diceva: io prendo come riferimento le tariffe professionali che sono state che trovo sul sito dell'ordine, adesso non mi ricordo bene appunto la natura della sua domanda, però mi diceva chiaramente: per lavorare io pratico delle tariffe un po' più basse, ma viaggio nell'illegalità, ma non credo che sia questo, è mercato, non è una questione di illegalità, notaio. Assolutamente no, cioè la gente deve avere un servizio adeguato, questo servizio adeguato deve essere pagato adeguatamente, questo è il succo della questione, d'altronde è un diritto costituzionale che il lavoro venga retribuito. L'indicazione della tariffa per le professioni è stata ritenuta finora un utile strumento per salvaguardare il cittadino. In molti casi le tariffe sono fatte in modo tale, per esempio le nostre si deprimono moltissimo all'aumentare del valore della pratica, per cui per esempio un passaggio milionario in realtà viene pagato con delle percentuali che hanno 2 zeri dopo la virgola e quindi molto basse, però molto spesso tengono conto anche di esigenze sociali. La procura fatta alla persona che viene lì per caso, il verbale di assemblea che ha un onorario cosiddetto fisso, cioè è fatta con un criterio complessivo. Eliminare qualsiasi tipo di criterio complessivo non è poi detto che porti a una rappresentazione corretta e quindi a un giusto pagamento di quello servizio, che è l'attività delle persone. Perché se noi la mettiamo solo sul piano del consumo del tempo, di quello che è la tariffa oraria e ci orientiamo verso una società all'americana, noi perdiamo tutto quello che è stata la base di quello che la collega commercialista ricordava prima, la fiducia. I notai, per esempio, sono in testa o quasi, forse al secondo posto, preceduti solo dai carabinieri, nelle classifiche della fiducia, e questo è il valore economico che la gente ci deve pagare. E la fiducia non si conquista con una mailing list, si conquista con un rapporto personale, con una conoscenza, con il tempo che il notaio deve dedicare al cittadino. Quindi il cittadino deve chiedere attenzione dal notaio e, come diceva la collega, deve scegliere il professionista ed esclusivamente in base a quello che è il rapporto di fiducia. La tariffa è un discorso di orientamento che probabilmente tutela i deboli e penalizza in qualche modo chi ha un grande potere contrattuale, ma questo rientra nel ruolo di mediatore culturale che hanno i professionisti. Se il notaio perde un'ora e mezzo per parlare con una persona che semplicemente manifesta alcune necessità per fare un testamento e non gli fa pagare nulla, io non credo che la deregulation tariffaria voglia un notaio che nel momento in cui entra il cliente gli fa pagare anche l'area certo. che entra in studio. E infatti con le stratosferiche tariffe appunto dei legali americani, che però insomma per fortuna spero che se ne approfittino solo delle grandi banche d'affari, lì c'è tutto un gioco, dico vabbè, ma non ci interessa stamattina. Alessandro da Roma, Alessandro buongiorno, mi scusi se l'ho fatta aspettare tanto e oltretutto adesso le chiedo anche un po' di sintesi, buona giornata. Sì, ci buongiorno, dica. Grazie a lei, complimenti alla trasmissione. No, io volevo sottoporre magari una questione, non so se è inerente perfettamente al motivo diciamo, delle discussioni che state avendo, però succede magari se, per fare un preventivo devo sostenere dei costi, primo, e secondo poi è successo che al momento che io non accetto un preventivo qualcuno mi chiede dei soldi. Allora, quindi, per esempio è capitato, non so, ripeto, state parlando di studi professionali, quindi però una carrozzeria dice quanto vuoi per aggiustare questa macchina X, se non lo fai però mi devi dare il 5%. Ma guardi Alessandro, questo è solamente un comportamento da denunciare apertamente, non so. Allora, non mi risulta che chi rifiuta un preventivo appunto debba addirittura pagare per il tempo perso per averlo elaborato, non lo so, dottoressa Marcarini, comunque assolutamente segnalare all'ordine professionale questo dei carrozzieri Alessandro, mi sembra veramente assurdo quello che ci ha raccontato. Rapidamente Alfredo da Brescia, perché abbiamo l'odontoiatra in linea, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono odontoiatra e secondo la mia esperienza insomma non è così facile ridurre al fatto del preventivo, perché in ambito odontoiatrico per esempio preventivo prevede molte indagini diagnostiche anche radiologiche che costano al professionista per esprimere proprio un preventivo corretto. E inoltre per quanto riguarda la posizione delle tariffe minime va tutto a discapito del cittadino, perché in ambito sanitario non dare la possibilità al professionista di avere un'adeguata ricompensa non ha modo di reinvestire nel proprio lavoro il denaro che guadagna e va tutto a discapito insomma della prestazione professionale che viene offerta. Allora Alfredo, io prendo mi metto da parte le sue considerazioni, perché avevamo già in mente, ne avevo già parlato anche con Marco Lombardo, col mio collaboratore, di fare una puntata a parte su tutto ciò che attiene alla professione medica e il campo delle liberalizzazioni, perché forse non si possono esattamente mettere sullo stesso campo il preventivo dell'odontoiatra rispetto a quello del commercialista. Dottoressa Marcarini, che cosa ne pensa? Le assegno le conclusioni finali di questa trasmissione con un'ultima magari serie, se vuole, di suggerimenti da dare ai nostri ascoltatori, come ci si deve comportare d'ora in avanti nei confronti appunto dei professionisti dei quali si ha bisogno della consulenza appunto con questa novità di cui abbiamo parlato questa mattina. Allora, sono assolutamente d'accordo sul fatto che il preventivo di un odontoiatra abbia bisogno di alcune indagini diagnostiche che nella nostra attività certamente sono inferiori, diciamo che le problematiche le scopriamo poi strada facendo, e quindi sono due tipologie di preventivi diversi, però un conto è fare pagare l'indagine diagnostica e un conto poi a redigere il preventivo dei lavori che saranno da eseguire sulla base dei risultati. Beh, ma nel preventivo forse si può anche mettere, guarda, sì, probabilmente certo, devo farti certo questa indagine diagnostica che ti costerà questo perché certo ci sono questi esami da fare, ma per cui forse va, non è poi così difficile, poi glielo chiederemo in un'altra puntata. Questo va bene. Allora, conclusioni. Le conclusioni sono: la fiducia, come dicevo, è alla base di ogni rapporto professionale, e questo non perderei, fossi un cittadino, neanche tempo a chiedere un preventivo a qualcuno di cui non ho fiducia. Nel momento in cui si tratta di avere a che fare con un professionista di cui si ha fiducia, si deve credere che se ho fiducia sull'attività che svolgerà, dovrebbe applicare, diciamo, la stessa fiducia si dovrebbe riscontrare poi nel preventivo che mi farà. Cosa vuol dire? Un commercialista o un avvocato, ho fiducia per la causa e poi mi frega sul preventivo? Certo. Sarà abbastanza difficile. Non la metterei con un'attività dettagliata troppo sintetica, ma certamente rivolgersi e chiedere più preventivi possibile. Grazie, sì. Grazie a tutti. Salva Danaio termina qui, ci sentiamo domani, buona giornata.